si yo y en el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Mi sono accorto un minuto fa, mentre andava la sigla, che la parola mobbing è una parola che, almeno a me, dà l'impressione di qualcosa di estremamente untuoso. Mi viene in mente un'anguilla che, se la prendi in mano, ti sguscia via. Infatti ho messo nella foto del mio profilo su Facebook un'anguilla, proprio adesso, prendendola dalla rete al volo. Mobbing. Mobbing è qualcosa che fa tremare le vene nei polsi chi soltanto ne ha avuto sentore, chi soltanto ha avuto questa sensazione terrificante su un posto di lavoro, che qualcosa intorno a lui stava lentamente minando ogni sicurezza, che giorno dopo giorno il luogo che in fondo certifica la nostra esistenza, che è il nostro posto di lavoro. Cosa fai nella vita quando ti si incontra? Tu devi dire che lavoro fai. E il tuo lavoro dà dignità alla tua persona, dà ragione d'essere alla tua esistenza, certifica e fomenta le tue relazioni, dà umore e sapore alle tue passioni, fa tutto il lavoro. Oggi senza un lavoro da poter raccontare al mondo non si ha motivo di esistere, salvo che non si sia un poeta, che non si sia un folle, un mistico, un santo, si sia comunque ai margini di ogni accettazione sociale con piacevolezza e senso di perdizione. Mobbing è un'azione precisa di accerchiamento, di isolamento sul posto di lavoro che tende a espellere un essere umano da quel consesso di persone. La cosa assurda, non lo sapevo, lo vedo stamattina in un libro di un ospite che fra poco vi faremo sentire la voce, di cui fra poco sentirete la voce, nasce proprio da un grande etologo, Corran Lawrence, che nel 63 la coniò, proprio definendo una sorta di atteggiamento di alcuni animali, del senso del gruppo, quando espelle qualcuno che non ha più una funzione in quel gruppo. Poi negli anni 70, per finire negli anni 80, fu associata al mondo del lavoro, a un'azione decisa, volontaria, precisa per allontanare dal posto di lavoro, scoraggiare un essere umano a rimanere in quel posto di lavoro. Azione molto, molto usata. Parleremo questa mattina non soltanto di chi l'ha subita, saranno tanti, vedo che molti mi hanno telefonato portando esempi nella vastissima e importante casistica del mobbing, ma anche da parte di chi la mette in atto. Io, avendo avuto nella vita anche ruoli gestionali, dirigenziali, so benissimo che i responsabili delle risorse umane, quando chiamano i direttori, danno alcune direttive ben precise su come efficientare il proprio personale. Fare efficienza significa anche liberarsi di alcuni pesi per l'azienda. Liberarsi di alcuni pesi significa fornire al lavoratore alcune occasioni, alcune proposte per togliere il disturbo, ma naturalmente, se non sono sufficientemente convenienti per il lavoratore, metterlo nelle condizioni di accettarle, quindi fare una piccola, leggera, morbida pressione, quindi cominciare a fare in modo che il lavoratore si senta sotto pressione. Poi esiste un mobbing anche di tipo elevato, si chiama il bossing, è il mobbing fatto sui dirigenti. Anche i top management sono sottoposti a azioni molto forti da parte degli editori. Inspiegabilmente possono avere anche loro dei grossi problemi. Più sale il livello di responsabilità e più forte la pressione. Mi disse una volta un avvocato del lavoro, amico mio, a cui mi rivolsi per un problemino, dicendo: beh sì, sai, più sali in alto più soffia forte il vento, e le tecniche di bossing sono terrificanti. Esiste il cosiddetto panino, quando sotto al dirigente che si vuole in qualche maniera incentivare ad andarsene, si mettono dei primi riporti che in realtà riportano al suo superiore diretto, e quindi si trova accerchiato con qualcuno sopra che fa pressione, qualcuno sotto che improvvisamente non risponde più agli ordini, improvvisamente manda delle grandi lettere in giro dicendo che non riesce più a capire le linee direttive, e comincia un lavoro lento e scarnificante nei confronti delle persone. Tra i 40 e i 50 anni, di sesso maschile, con contratto a tempo indeterminato, è questo l'identikit del lavoratore mobbizzato. Le persone sono sono delle cose fragili, si rompono facilmente. Le vessazioni che vi possono fare individualmente a ciascuno di voi, possono essere violentissime. Isolati dai colleghi d'ufficio, dequalificati, costretti a subire umiliazioni di ogni tipo, donne che tornano dalla maternità e si ritrovano senza scrivania e senza incarico. Ma guardate che la violenza non è quella per cui vi aggrediscono fisicamente, basta lasciarvi senza fare nulla, vi possono strappare la dignità a ciascuno di voi. 800 24 00 24, vediamo se questa mattina riusciamo anche soltanto per il lasso di tempo di un'ora scarsa di prendere in mano e tenere in mano questa anguilla sgusciante che è il termine mobbing. Mi scrive già Nicola sul mio profilo: è difficile da dimostrare in giudizio, per questo è sgusciante. Mi scrive Ubik: è una sorta di stupro lavorativo, si viene abusati e costretti a subire piccole violenze da superiori gerarchici, aggiungo non soltanto da superiori gerarchici. Il mobbing equivale un po' al nonnismo, e quando la persona comincia a entrare nel cono d'ombra esiste una sorta di consenso collettivo, improvvisamente si fa il vuoto intorno, improvvisamente tutti capiscono che quella persona è sottoposta al mobbing e quindi nessuno vuole essere contaminato, come se fosse una malattia terrificante, diventi questo un portatore di un morbo che può essere trasmesso. L'ambiente di lavoro tende a creare una sorta di onda che isola ancora di più il mobbizzato e che crea consenso a chi su di lui sta compiendo questa operazione. Poi, per rendere ancora più scivolosa e viscida questa anguilla, esistono anche gli approfittatori di questo termine mobbing. Esistono persone che dicono al mondo di essere mobbizzati, che assumono posizioni vittimistiche. All'interno delle aziende è molto facile avere i veri e propri rami secchi, corpi morti, quelli che se ne approfittano, quelli che passano da un certificato medico a un altro, quelli che passano da una malattia all'altra e quelli che quando sono sul posto di lavoro fingono di non sapere svolgere alcune funzioni perché siano responsabilizzati, quelli che si capisce benissimo che sono quelli che trovano le pieghe più accoglienti del ventre morbido di qualsiasi ambiente di lavoro. Poi guai a toccarli, guai a provare a dire qualcosa, hanno sempre davanti questa sorta di dichiarazione esplicita di essere mobbizzati. E molte volte, per paradosso, sono gli unici a riuscire a avere giustizia, i primi a avere giustizia, i primi a avere solidarietà. Il mondo è fatto anche così. Lavoravo appunto in comune e quindi appena entrata ho avuto subito l'ostilità delle colleghe che mi hanno cominciato, diciamo, a togliermi parte del lavoro che mi veniva fatto, non mi completavano mai l'insegnamento delle mie attività e mi lasciavano completamente sbandata. Dovevo arrangiarmi sempre da sola. Io, siccome ero separata dal marito, e quindi il mio nuovo compagno lavorava lì in comune dove lavoravo anche io, e quindi loro pensavano che io magari fossi stata assunta tramite l'intercessione del mio nuovo compagno, cosa assolutamente non vera, ecco perché questo ci tengo a precisarlo, però naturalmente loro pensavano questo, per cui io ero guardata malissimo, quindi si trovavano fra di loro, ma mangiavano, facevano la pausa al caffè, non mi rivolgevano la parola, chiudevano la porta dove ero io. Cominciamo a farvi sentire alcune testimonianze, sono nostri ascoltatori che ieri hanno reagito immediatamente quando ho messo su Facebook la richiesta di sentirmi raccontare alcune storie di variegato mobbing. Vedete, dalla prima storia già si comincia a capire che il mobbing, quindi l'azione anguillosa sull'ambiente lavoro, corrisponde spesso a delle mutazioni anche traumatiche della propria vita personale. Per una donna potrebbe essere una gravidanza, potrebbe essere anche per un uomo una situazione matrimoniale in crisi o la rottura di una unione o un lutto in famiglia o una malattia o un qualcosa che non ti rende pronto a quella reattività costante che occorre per guardarsi le spalle sul posto di lavoro che occupa normalmente l'80% dell'energia che sarebbe molto più proficuo usare per il lavoro stesso. Cercavano di darmi delle mansioni tutte, no, più umilianti, tipo, non so, le più brutte, per esempio di andare a prendere delle bottiglie, delle cose per la colazione, insomma, tutte cose che non c'entravano naturalmente col mio lavoro. Oppure mi toglievano dei fogli importanti, una volta addirittura sono spariti dei soldi da dei cassetti e poi me li facevano ritrovare, quindi come mi facevano passare come se io fossi diventata una persona distratta, incompetente, insomma, proprio queste cose sono state provate. Infatti io poi scrivevo ai superiori e i superiori non mi rispondevano. Credo pure se si trovavano fra di loro, io ero quella attaccata, e i superiori naturalmente ascoltavano le altre e a me non mi davano nessun credito. Pier Giuseppe dice: per 4 anni un'azienda ha tenuto un impiegato in una soffitta pur di non averlo tra i piedi. Lui studiava e si è laureato. Ho avuto anch'io esperienze del genere. Io ho diviso una stanzetta vuota con Giorgio Presburger, che aveva davanti una scrivania e guardava il muro. È un drammaturgo esperto in teatro, a sua volta autore teatrale, responsabile non so di quanti teatri e di quanti testi con respiro e fama mitteleuropea. Stava in Rai, non lo volevano tra i piedi. Stava, mi ricordo, per un paio di mesi divisi una stanzetta con Giorgio Presburger, che mi domandava e mi dice: ma come mai non mi fanno fare nulla? Mi chiamano da tutti i teatri del mondo, scrivo qua, scrivo là, ho fatto questo, ho vinto un'infinità di premi. E stava su questa scrivania di formica, guardava il muro. Quindi il mobbing, quando è determinato, non guarda in faccia a nessuno. È inutile immaginarsi e riflettere sui propri meriti professionali. Quando si è mobbizzati si diventa meno di nulla. Dopo tanti anni sono ammalata, ho dovuto prendere delle medicine perché avevo degli attacchi di panico, di angoscia. Sono stata ammalata, quando ritornavo figurati ancora peggio, quindi mi davano le mansioni, che buone, me le avevano tolte tutte, mi facevano fare solo delle fotocopie, mi mandavano, guarda, è stata una cosa terribile. Io ero una persona competente, ero estroversa, una persona, come posso dire, intraprendente, fiduciosa. È finita la storia che mi sono ammalata, sono rimasta a casa e dopo, curandomi con medicine antidepressive, sono ritornata di nuovo e loro mi hanno lasciato per i corridoi di tutto questo comune, ai piani, praticamente a far solo delle fotocopie, mi avevano tolto tutto il lavoro e quindi io a un certo punto ho dato le dimissioni e sono rimasta a casa. Aiel dice: non giustificare il mobbing con affermazioni brunettiane sul nulla facentismo. Le vessazioni e la violenza sono altro, il mobbing è altro. Non ci prendiamo in giro. Ho lavorato molto in ambienti in cui ci si confrontava con persone. Il mobbing è una cosa terrificante, che ho subito varie volte nella vita, quindi lo conosco perfettamente, ne parlo con serenità e con cognizione di causa. A vari livelli, al massimo livello e a livelli infimi, quindi so cosa sia, non sto scherzando. So anche cosa siano le piaghe negli ambienti di lavoro, le persone che volontariamente, volutamente, perché protette, perché vittime conclamate del proprio nullafacentismo, rappresentano un problema per i colleghi. Ci sono anche queste, non facciamo finta che non esistano, e molte volte il loro vittimismo mette anche in difficoltà le persone che in realtà subiscono pressioni di vario tipo. Esiste sempre il furbacchione nel luogo di lavoro, non ci prendiamo in giro, non fingiamo che non esistano, non fingiamo che sono tutti buoni. Tutti abbiamo avuto il collega che vive sul lavoro degli altri, che si fa bello del lavoro degli altri, che è sempre pronto a non esserci nel momento in cui bisogna dividersi una responsabilità. Esiste anche questo. Diceva l'ascoltatrice, l'abbiamo sentito adesso nella sua triste storia di mobbing, un episodio che mi sembra abbastanza singolare, ed è stata messa a fare le fotocopie, che è il lavoro simbolicamente più umile e più inutile, come dire fare la guardia al bidone di benzina. Mi ricordo un film, il miglior film di Nicoletta Braschi, secondo me, perché una volta tanto lo ha fatto senza essere obbligata a farlo assieme al marito, che è Mi piace lavorare, un film di Francesca Comencini del 2003, che parla di una donna appassionata del proprio lavoro, scrupolosa del proprio lavoro, che si trova, ahimè, in un momento cruciale della sua azienda, che dopo una fusione ha bisogno naturalmente di fare efficienza nel personale. L'accordo con i sindacati è che nessuno sarà tolto dal posto di lavoro e quindi non c'è altra maniera che cominciare a scoraggiare i più deboli, e la più debole è proprio lei. Allora signorina, queste fatture per favore, che ho fretta questa mattina? Io di fatture gliene ho trovata una sola, l'altra non è rintracciabile. Che significa non è rintracciabile? L'altra dov'è? Significa che non è in archivio. La cosa assurda è che proprio questa mattina io e il dottor Venzi avevamo deciso di darle un'altra possibilità. Questa è la cosa assurda. Allora, lei da oggi si occupa della fotocopiatrice. Mi riempie la carta ogni volta che finisce e su questi fogli mi giustifica ogni foglio che viene utilizzato. Nome della persona che lo utilizza, motivo e ora. È chiaro? Va bene. Buon lavoro. E anche lei viene messa a fare la guardiana nelle fotocopie. Mi ricorda questa parlata romanesca del capo delle risorse umane come dei discorsi già sentiti. Chissà perché sono sempre dei cafoni. Chi si occupa di risorse umane deve sempre avere naturalmente questo piglio, questo atteggiamento cagnesco, perché è logico, deve essere il cattivo di un'azienda. È anche uno sporco lavoro, è un lavoro utile, è un lavoro importante, però naturalmente deve sempre fare la parte del cattivo. C'è sempre questa piccola venatura additiva di rozzaggine. Perché? Perché in fondo è un po' come quello che ha la frusta nella galera, che deve dare ritmo a quelli che remano, e naturalmente non può essere certo una signorina. Allora, qui ci viene contestato che noi non produciamo, non lavoriamo, no, e non rispettiamo le consigne. Ma è una tragedia, ma mi dispiace. È la prima volta nel vent'anni. Ma non c'entro niente in questo. Ma cosa c'entro? Questo rapporto ce l'hanno fatto. Ma mi dispiace moltissimo. Sì, facciamola parlare un attimo. Questo rapporto. Facciamola parlare un attimo. Io sono messa peggio di voi. Mi hanno mandato qui a fare questo lavoro. Ho fatto quello che mi hanno chiesto di fare, ma non ho fatto niente di più. Senta, scusi, da quando è venuta lei che ci si è messa lì a controllare i tempi di lavoro, noi qui dentro non abbiamo più lavorato come prima. Ma non c'entro io, che sono stata mandata qui a fare un lavoro che non è il mio lavoro. Mi hanno tolto dal mio lavoro che facevo e che facevo con passione. Vabbè, ma e sono queste le tue giustificazioni? A noi con queste lettere ci vogliono licenziare. Hai capito o no? Ho fatto solo il mio lavoro. Tu non hai fatto il tuo lavoro, tu hai fatto la spia. Questa lettera a noi non c'è mai arrivata. Non c'entro. È la prima volta in vent'anni che ci capita una cosa del genere. Ci vuoi fargli... Questa è un'altra delle maniere che si hanno per minare le persone. Viene messa responsabile di una linea di produzione della sua azienda, e naturalmente lei ha la responsabilità di rendere efficienti dei momenti, delle aree morte che erano abituati a gestirsi il lavoro in una certa maniera. Naturalmente su lei c'è anche il peso psicologico poi della reazione di questi, che si sentono presi di petto in un momento in cui l'azienda ha bisogno naturalmente di chiudere alcuni settori. Bella la discussione che sta avvenendo nel mio profilo, perché si sta cominciando anche a demitizzare questa parola da un atteggiamento vittimistico di molte persone che vivono soltanto per il lavoro, per gli intricati rapporti di lavoro, che sembra che ogni respiro di un collega corrisponda a una congiura, altri che dicono che hanno l'impressione che sia una parola un po' abusata, che annega in un mare di mobbizzati quelli che realmente, mobbizzati finti, ipotetici, che sono veramente, subiscono questo tipo di pressione. Giorgio, buongiorno. Buongiorno, dottor Nicoletti. Ecco, vediamo un po' di riportare, se possibile, questa parola nella sua realtà. Esiste, e indubbiamente esiste, uno strumento di gestione del mobbing, anche se nessun capo del personale lo ammetterà mai, ma esiste anche una sorta di abuso di questo termine che rende ancora più drammatica la situazione dei veri mobbizzati, vero? Certo, allora il discorso è molto semplice. Intanto premetto che io non faccio parte di un quadro dirigenziale o via dicendo. La cosa è molto semplice. Io qualche anno fa avevo esigenza di un lavoro. Ho trovato una persona che conoscevo già da anni e mi ha fatto una proposta di entrare nella sua azienda. Cercavano persone con conoscenze linguistiche. Sì, stringiamo, se no non facciamo in tempo a chiudere prima dello spazio. Taglio subito. Allora, ho notato subito dopo l'entrata in questa azienda un comportamento strano da parte di questa persona. Ma che l'ha assunta a fare se poi voleva mobbizzarla? No, questo non mi è mai stato chiaro, sinceramente, non l'ho mai capito. Fatto sta che io facevo sempre il mio lavoro, ho mantenuto una linea di condotta, penso, ineccepibile. Tutto qua. Non capisco come questo qui da un giorno all'altro ha cominciato a gridare, a tenere comportamenti proprio scorrettissimi nei miei confronti. Lasciavo un lavoro fatto a regola d'arte alla sera. Parlo di un ambiente di fabbrica, dottor Nicoletti, eh? Quindi lei è stato appena assunto. Sì, ma alla fine come è andata a finire? Alla fine, dopo 5 anni di torture psicologiche, veramente psicologiche, e per fortuna io sono anche uno forte di carattere. Come ha risolto la situazione? Niente, ho dovuto lasciare quel lavoro perché non dormivo neanche più la notte. Lei non si è mai posto che ci fosse, poteva esserci anche un problema da parte sua, no? Io mi sono fatto un'autoanalisi, sinceramente, però non ho trovato un riscontro, cioè, più di comportarmi bene nel mio lavoro, andare d'accordo con i miei colleghi, essere puntuale, cioè seguire quella linea di condotta. Vabbè, che... questo ci fa riflettere sul fatto che molte volte, almeno da parte chi lo subisce, c'è questo senso dell'irrazionalità, non si capisce perché, dice faccio tutto quello che devo fare, perché? Perché probabilmente sono delle circostanze che noi non conosciamo, qualcuno che ambisce al nostro posto o la necessità di fare comunque un po' di piazza pulita, di alleggerire alcuni costi fissi di lavoro o altre cose che noi non sappiamo, per cui inizia questa azione. Melog 2.0. Io ero arrivata con delle promesse che mi erano state fatte, quindi delle aspettative professionali di un certo tipo, che poi quando ho iniziato a lavorare non si sono concretizzate, nemmeno c'era più la possibilità. È come se mi avessero detto delle cose che poi si sono rimangiati, mettiamola così. Anche io ho fatto presente questa situazione chiedendo se era possibile, per esempio, spostarmi. E da lì è iniziata la trafila, nel senso che invece di trovare un capo delle risorse umane che dice sì, questa è una risorsa, può lavorare, rende, eccetera, eccetera, ma effettivamente non è inserita nel contesto adatto, da 3 anni a questa parte hanno cominciato appunto quel discorso di isolamento e di angherie dall'alto per spingermi comunque ad andarmene e a dare le dimissioni. Per cui la cosa più che a me dispiace di più è quella che ti senti una risorsa, hai voglia di lavorare, vuoi fare, ti proponi, cerchi eccetera, però è come se trovassi un muro, perché in qualche modo hai osato porre delle domande o semplicemente mettere i puntini sulle i su determinate situazioni. Il problema molte volte è proprio questo: uno si sente una risorsa, uno si sente di avere i numeri, uno si sente comunque di avere apprezzamento esternamente al proprio ambiente lavoro rispetto alla sua professione. Anche ci sono professioni non propriamente legate a prodotti definibili in maniera concreta, anche nel campo del pensiero, della creatività, dell'editoria, esiste comunque questo problema. È che non c'è la stessa percezione da parte dell'azienda per cui lavori. Su questo c'è poco da fare, su questo c'è poco da darsi da fare. Esiste una situazione come quella che definisce Cristina su Facebook, dice: il mobbing vero e proprio, tipo insulti o pressioni psicologiche per farti sentire una nullità, può essere denunciato, perché sono degli esempi concreti, in quel caso l'anguilla è più facile prenderla in mano. Mentre bloccare la carriera di una persona con continue scuse banali, senza motivazione, che alla fine ti tolgono la forza di reagire e arrivi al punto di licenziarti, come lo vogliamo chiamare, è una forma sottile, impalpabile e soprattutto inimpugnabile da un punto di vista legale. L'idea che ho io è che i dipendenti ideali sono quelli che non vedono, non sentono, non parlano, non desiderano e non hanno aspettative. Allora tutto funziona perfettamente. Nel momento in cui tu esci un attimo da questo schemino e dici ma veramente io, a quel punto le reazioni possono essere anche quelle di questo tipo, cioè quelle del mobbing. In qualche modo i colleghi si sono divisi e tuttora c'è come una spaccatura, no? Chi capisce determinate situazioni e chi invece le situazioni preferisce non prendersene carico, insomma, in qualche modo. Nel momento in cui una risorsa in quella situazione non può esprimersi e quindi di conseguenza non può dare, non può rendere al 100%, credo che sia responsabilità e sia, come dire, necessità di una responsabile aziendale di mettere quella risorsa nella situazione di rendere, cioè è proprio una questione molto banale, no? In ogni situazione della vita, se in quella situazione particolare non rendi, magari invece in un altro ambito puoi veramente esprimerti al massimo. Invece di prendersi carico di questa cosa, preferiscono eliminare il problema. Certo, avendo gli strumenti in mano, ricollocare una risorsa per assecondare le sue aspirazioni è la cosa ideale, sarebbe meglio per la risorsa, non è detto per l'azienda sia la scelta più proficua, e l'azienda logicamente lavorano per il loro profitto. Enrico, buongiorno. Buongiorno. Ecco, lei è l'ospite ideale questa mattina perché è stato da l'una e dall'altra parte, è stato dirigente, sì. Ha usato gli strumenti, voglio pensare, legali di pressione su un dipendente per alleggerire alcuni pesi e fluidificare il suo ramo d'azienda, poi a sua volta, come succede, è stato in mezzo al panino anche lei. Esattamente, sì. Proprio con la stessa tecnica di cui le ha parlato all'inizio, mi sono state messe delle persone come primi riporti che in verità riportavano direttamente al mio diretto superiore. Lei pensa, questa tecnica me la insegnavano, poi l'ho subita io senza accorgermene, quindi siamo fratelli in questo. E infatti la cosa buffa è che dopo averla subita, soprattutto senza capirne veramente un motivo, motivo, anche perché fino a poco tempo prima ero abbastanza ben inserito in questo tipo di meccanismi aziendali, tanto da averne in qualche maniera fatto parte insieme con l'ufficio del personale, eccetera, eccetera. E quando ho visto che queste tecniche venivano applicate nei miei confronti e conoscendole molto bene per averle utilizzate, ho deciso che qualunque fosse il motivo dell'azienda per non volersi più avvalere della mia collaborazione, sicuramente aveva ragione l'azienda e ho dato le dimissioni. E poco dopo ho scoperto qual era il vero motivo, perché questa è la cosa buffa, perché non sempre le aziende sono estremamente razionali. Sui dirigenti soprattutto molte volte sono motivi abbastanza filosofici, diciamo. In questo caso era un motivo molto più semplice, perché la mia posizione, non appena si è resa libera, è stata data all'amante di un altro amministratore delegato del gruppo per cui io lavoravo, quindi in questo caso è stato abbastanza singolare l'avvicendarsi di persone in un ruolo utilizzando questa tecnica, che in verità non serviva a snellire il peso del personale. Lei lo sa che un dirigente comunque è una posizione, soprattutto se si lavora nel pubblico, poi penso che naturalmente ha un suo peso e un suo valore, è una moneta di scambio importante, non è che deve fare soltanto i conti con la concorrenza interna, con l'efficienza, con il proprio lavoro, anche col fatto che è come se avesse un collier di diamanti al collo, una pelliccia di visone addosso secondo altri parametri, non è detto che questa cosa non abbia un suo valore su altri mercati paralleli che comunque hanno il loro peso e il loro valore nella gestione di un'azienda. Grazie Enrico. Io passo adesso a Federico Fontana, che è l'ospite che ci ha ascoltato finora, ma voglio darle tutti gli elementi per poter finalmente darci lei qualche elemento concreto, che è uno psicologo clinico, autore di Buon lavoro collega, Il mobbing come violenza pianificata, edizioni Agenzia Segnalibro. Federico Fontana, buongiorno. Buongiorno. Ecco, lei, non le faccio una domanda diretta, ma alla luce di quello che ha sentito dire finora, può darci una definizione però coerente e attuale questo termine mobbing? Ma guardi, innanzitutto io volevo fare una considerazione inerente anche all'ultima telefonata che c'è stata, perché si pensa, come è ovvio, che chi subisca il mobbing sia chiaramente il più danneggiato, e la cosa importante da sottolineare è che in realtà il mobbing è anche una cosa estremamente stupida da parte anche delle aziende, perché con dati alla mano si è andato a verificare che in tutta l'Europa il fatto che le aziende impieghino del tempo a mettere dei lavoratori in condizione di non lavorare, e loro stessi impiegano del tempo per strutturare delle strategie per fare questo, crea in realtà poi sui grandi numeri un danno economico notevole. Quindi il mobbing in realtà è una piaga sociale anche in questo senso. Sì, ma chi usa questo strumento in maniera indiscriminata, non seguendo, ammesso che cinicamente si possano seguire delle regole di profitto, quindi sia ammesso fare questo tipo di cosa, molte volte per motivi del tutto irrazionale, sì, molte volte, come diceva questo signore, per fare spazio all'amante di un collega. Infatti, il mobbing può nascere da diverse esigenze da parte di chi lo vuole applicare, sicuramente ci possono essere dinamiche di potere, casi di gelosia, cose di questo genere, però se vogliamo andare a analizzare su problematiche più grosse, sicuramente il periodo storico che stiamo vivendo in questo momento influisce notevolmente. Pensiamo al precariato, per esempio, perché il precariato, il fatto che la maggior parte dei lavoratori in questo momento si trovano non tutelati da contratti forti che in qualche modo danno i loro diritti, eccetera, li portano a stare in una posizione di debolezza, sicuramente. Sì, ma mi sembra che i casi di mobbing che ho sentito finora, quelli cui mi scrivono, sono persone con contratti a tempo indeterminato, anche collocati in un'azienda, già con dei ruoli consolidati. Questo è il mobbing più classico, quello che forse esiste da più tempo, perché un contratto molto forte, specie in aziende con più di 15 dipendenti, dove quindi il datore di lavoro per licenziare può solo impugnare la giusta causa, diventa allora il mobbing una strategia per poter portare il lavoratore alle dimissioni. Perché non si hanno strumenti per alleggerirsi con la moto. Però non ci dimentichiamo che adesso col precariato, questo se si parla anche con avvocati che lavorano, io ho contatto anche con molti avvocati, e loro mi dicono che il precariato comincia a diventare anche un altro strumento adesso che porta a mobilizzare, perché una persona che ha paura di perdere il lavoro, che ha paura, che non ha un contratto forte, chiaramente è più suscettibile a subire determinati comportamenti e stare zitto, comunque non denunciarli per paura appunto di perdere il lavoro, eccetera. Mi sembra un po' meno razionale mobilizzare un lavoratore precario, che in fondo è un peso relativo, un contratto a termine, basta non rinnovare il contratto al prossimo giro e quindi già se ne è liberati. Comunque mi sembra che stiamo cominciando ad entrare nel concreto. Melog 2.0. Faccio il promotore finanziario da 15 anni, ho lavorato per le principali reti che esistono nel settore, quindi diciamo che siamo sottoposti continuamente a pressioni di tipo commerciale che partono dalla semplice caramella, ma insomma diciamo può essere bastone e carota, può essere considerato, partono dal semplice premio di produzione aziendale fino ad arrivare a delle umiliazioni più o meno pubbliche. L'episodio forse più grave che io ricordo, un giorno ci chiusero in una stanza in tre insieme al capo area e al nostro capo, che a dire del capo area era poco pressante su di noi, e ci minacciarono direttamente di toglierci dal portafoglio i tre clienti migliori di ciascuno, facendo nomi e cognomi davanti a tutti alla faccia della privacy, e dicendo: questo c'ha con te un investimento di 1 miliardo, questo c'ha con te un investimento di 300 milioni, domani o gli vendi questo tipo di titolo, questo tipo di obbligazione più o meno tossica, più o meno derivata da altri titoli di borsa, e, o se no domani te lo tolgo dal portafoglio e ci mandiamo il più bravo della categoria di tutta la regione. Perché meravigliarsi, perché stupirsi? Chi ha detto che i posti di lavoro non siano fatti di angiolette, di mammolette? Chi ha detto che luoghi così competitivi abbiano affisso sul muro un codice morale, un codice etico, o facciano ogni giorno dei fioretti per essere più buoni? E sia un ambiente di sciacalli, un ambiente duro, un ambiente competitivo. Ogni cosa va bene per mantenere alto il livello della competizione. Siamo tutti messi in questa macchina, abbiamo tutti condiviso le regole di questa macchina. Quando andiamo a sbattere con la parte più dolorosa dell'ingranaggio, però, ci accorgiamo che ci possiamo anche fare male. Queste cose che sto descrivendo magari rispondono molto a quella che in inglese viene definita tattica del bossing, cioè quella in cui il boss, cioè il capo dell'organizzazione aziendale, fa delle pressioni più delle volte indebite, che possono andare dal stigmatizzare l'operato magari del singolo operatore, cioè del singolo professionista durante la riunione con tutti gli altri colleghi, per cui si dice: ah, non fate come Tizio, che magari poi alla fine può essere anche in certi sensi corretta, al poi mettere proprio nell'angolo delle persone impedendogli proprio di svolgere il proprio lavoro. Di fatto nel mio settore questo avviene esercitando, quando c'è una discrezionalità nel attribuire magari dei portafogli di clienti o nell'agevolare alcune pratiche, esercitando questa discrezionalità in senso negativo, cioè non agevolando le pratiche della singola persona che si vuole punire, diciamo così, o comunque ghettizzare. Ho fatto causa facendo rinviare a giudizio il mio direttore generale per alcune cose che aveva affermato ad alcuni miei clienti, però di fatto si tratta di cause civili, anche se fatte presso la sezione lavoro, che sono lunghissime, durano 7, 8, 10 anni. Federico Fontana, corrisponde a una sua analisi che ha fatto quello che dice questo ultimo nostro ascoltatore, che poi andare in causa civile per un problema di pressione, soprattutto quando sei dirigente, significa aspettare anni? Sì, questo purtroppo, i tempi della giustizia sono molto lunghi. E poi la cosa più difficile, come appunto si diceva anche prima, è molto spesso andare a dimostrare quello che accade, perché un conto è quando si parla di un demansionamento, di una violenza, di una molestia o comunque di un licenziamento ingiustificato, allora lì anche la stessa codice civile prevede che queste cose possano essere punite, però quando si tratta di pratiche subdole, appunto, che giornalmente tartassano la persona ma non possono essere comprovate, anche perché molto spesso anche i colleghi non, che potrebbero testimoniare non lo fanno, diventa innanzitutto difficile da dimostrare, e comunque poi aprire una pratica, quindi andare davanti a un giudice, significa poi aspettare anni, e quindi molto spesso la cosa migliore, quello che fanno molti lavoratori, è cambiare lavoro. Sì, io mi sono sentito dire in un periodo della mia vita, fare un discorso, ma guarda, c'è 50 anni, ti conviene fare causa. Causa dura 7 anni. A 57 anni, anche se vivi, noi per questi 7 anni non ti facciamo fare niente. Chiudiamo una stanza e stai immobilizzato. E cosa fai a 57 anni anche con una causa vinta? Trattiamo una buona uscita. Molte volte anche questi tempi diventano motivo di pressione per concludere il rapporto. Diciamo che è una delle, alla fine uno dei punti di arrivo, che spesso quando l'azienda riconosce il torto, e allora per evitare appunto i tempi lunghi della causa, il patteggiamento quindi molto spesso può essere anche una soluzione. Diciamo, difficilmente una causa arriva fino in fondo. Abbiamo delle sentenze famose come quella di Torino, no? Dove appunto si fa riferimento proprio al mobbing, da cui poi è nato, fungono da precedenti, però per il resto diciamo è difficile, anche perché il mobbing non è riconosciuto come reato in questo paese, quindi... A meno che non ci siano dei reati, cioè un insulto, una percossa, una sì, diciamo, pressione reale? Però non vengono catalogati come mobbing. Diciamo, nel codice civile diciamo, c'è un articolo, adesso non ricordo il numero, comunque, che specifica che il datore di lavoro ha il dovere di tutelare al massimo i propri lavoratori. Quindi quando si viene a dimostrare che questo non avviene, si può agire anche a livello legale. Però diciamo il mobbing in quanto tale non è che esiste. Per questo l'ho definito come un'anguilla, è impossibile prenderlo in mano, quando si fa dimostrare che mi guarda con uno sguardo di disprezzo ogni volta che entro nel posto di lavoro, è difficile dimostrare una cosa del genere, non mi saluta, mi tiene isolato, nelle riunioni divento lo zimbello degli altri, sono tutte cose che possono essere rigirate, dire che sono normali tecniche di gestione, d'altronde si fanno corsi per gestire in cui viene insegnato il problem solving, che significa proprio come risolvere alcuni problemi in maniera dolce, ma in realtà quello che per qualcuno dolce, per qualcun altro è molto amaro. Angela, buongiorno. Buongiorno. Lei è stata sottoposta a mobbing? Sì, diversi anni fa, adesso ho cambiato lavoro, grazie a Dio. E lavoravo in un grande centro commerciale, prima come facevo l'antitaccheggio, mi hanno chiamata loro. E abbiamo pattuito per 7 posti di supermercati in 7 paesi diversi e devo andare a fare l'antitaccheggio, dopodiché dopo qualche anno con la macchina aziendale, dopo qualche anno mi hanno proposto di andare in altri posti, per me impossibile raggiungere perché lontani, quindi significava non più vita. E lei lo considerava questo come una presa concreta nei suoi confronti? Questo, mi hanno spostato e mi hanno messo in panetteria, tutto bene. A me piaceva lì il lavoro, toccavo materiale, a me piaceva, però lì mi hanno fatto orari di apertura, di chiusura in un centro commerciale, quindi 6 di mattina, 22, 23 di sera. Qualcuno deve pur farlo però quel lavoro. Lo deve pur fare, però si possono fare orari continuati, sì, tutti gli altri orari continuati miei spezzati. Sì, ma era l'unica che aveva un trattamento diverso dagli altri? Comunque... L'unica che faceva le aperture e le chiusure. Ma penso ci sia una regola sindacale sugli orari di lavoro, più di tanto non può stare una persona in un posto di lavoro. Infatti, cioè questa tanto, è il contravvenire a una regola basilare. Mi mettevano 4 ore di pausa, 5 ore fra il primo turno e il secondo turno, per me significava stare fuori tutta la giornata. E che tra l'altro non può. C'era qualcosa che contravveniva una regola scritta, un accordo scritto, questo suo organizzazione dell'orario? Niente di scritto, però tutte le chiusure a me, le aperture. Sì, no, però esiste una regola che un lavoratore non può più di tante ore stare nel posto. E eravamo in 5, 6, 7 lì a lavorare in panetteria. Mm. E io infatti mi sono rivolta a un. Prima di tutto mi sono scritto il sindacato, non l'avesse mai fatto. Vabbè, questo. 5.000 dipendenti, eravamo 10 iscritti. E dopo mi sono rivolta a un avvocato, però tutte le cose non potevano essere dimostrate. E allora signora, se non potevano essere dimostrate all'interno, sì. Che sì. Poi cosa succedeva? E succedeva che facendo tutte le chiusure io, qualche collega si girava i pollici e mi rimaneva tutto il lavoro arretrato. Sì, però signora, come vede, ancora una volta, ripeto, non vorrei sembrare spietato. Quello che dicevo, ci sono dei margini di improbabilità. Se lei faceva tutte le aperture, tutte le chiusure, passava una giornata intera dentro il suo posto di lavoro, questo non si può fare, non è mobbing, è una banalissima operazione che va contro delle regole che valgono per tutti i lavoratori. Quindi evidentemente nel suo racconto ci sono delle fasi o di accordo suo interno o di qualcosa che lei ha volontariamente accettato di fare, dice non c'è nulla di scritto, che poi l'ha messa nelle condizioni di poi rivoltarsi. È sempre qualcosa di molto difficile definire. Andrea. Sì, buondì Nicoletti, buondì, complimenti per la trasmissione. No, perché vede, parlando di questo argomento mi rendo conto che do la stura molte volte delle situazioni di cui non capisco l'inizio e la fine, in cui mi sembra molto difficile e molto problematico poi trovare dei criteri razionali. Certo. La lamentela del lavoratore molte volte, a maggior parte delle volte, è appoggiata su criteri, su circostanze concrete, molte volte si sfaccetta, diluisce, sfrangia in situazioni del tutto incomprensibili. Vediamo il suo caso, poi chiudiamo. Sì, io mi occupo di amministrazione del personale, gestione, attualmente in uno studio, ma ho lavorato anche per diverse aziende e ho avuto tantissimi casi sotto mano. Nella maggior parte dei casi diciamo che c'è un 50 e 50, non è sempre stato da una parte la colpa. In modo particolare ci sono stati proprio dei casi eclatanti in cui veramente non c'erano le premesse per un mobbing, però le persone, sapendo che c'è questa possibilità, cavalcano ovviamente la cosa e cercano di sfruttare, anche dando indicazioni completamente contrarie alla realtà. Nel senso, ecco, allora concorda come proprio in conclusione che è, per questo l'ho definito un'anguilla, è senz'altro uno strumento di sopraffazione terrificante quando lo si subisce, lo si applica in maniera indiscriminata, quando con il lavoratore non si fa un patto prima dicendo non mi servi più, mettiamoci nelle condizioni che entrambi siamo soddisfatti dal fatto che tu mi alleggerisci il tuo peso, o in altri casi in maniera vessatoria si va contro quelle che sono le regole scritte nei contratti di lavoro, ma in molti altri casi diventa una limacciosa maniera per giustificarsi, per giustificare delle situazioni che molte volte hanno delle fattispecie talmente difficili, oscure raccontare, che siamo un po' lontani dal caso di una reale, concreta, volontaria violenza nei confronti del lavoratore. Comunque l'anguilla era sgusciante, era viscida, abbiamo tenuto in mano per quasi un'ora e adesso la lasciamo in mano da chi se ne occupa in maniera più concreta di noi. Ricordo che questa trasmissione verrà replica alle 22, ringrazio Fabrizio Intonti e Paolo Corleoni e ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog 2.0.